occhi nella notte vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda di quando spegnevo la luce da sola, volevo tagliare la corda. Trasformare sogni alle passioni, nei trigoni è quello che zio mi ha chiesto. Io non volevo sentire ragioni, ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio. Questo è lo spiraglio che mi fa sentire meglio. Forse solo un poco di malinconia, mentre guardo e poi mi cerco nella gigantografia. Crisi di coscienza, forse di identità, eppure io mi riconosco proprio in quella là. La mia giornata se ne va ed io divisa tra l'entusiasmo ed una nuova paranoia. In quel mondo che sembra lontano è invece qua. Attenzione, parlo della realtà. Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Toccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È il presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando. Tempo cerco giovane che non può sbaglia, tempo cerco vecchio che vuole recupera, tempo cerco tossico che non si può fare, tempo cerco tempo e tempo non c'è una statua. Siete mamma, siete mamma, siete lo zulu. Tempo magari una volta, ma tempo non c'è sta più. Tu siete mamma, siete mamma, siete lo zulu. O curva in galera tutto il tempo che vuoi tu. Era l'uomo così, la galletta, la cartella, la scuola, la casa, le zane, l'ombrello, si chiama cappella, ma branatella, si chiama tulille. Non bastava firmata, teneva una linea, se usciva la sera, ma faceva per ogni volta che c'era una croce nera. Una storia vera, non si poteva, e tu ballilli in da televisione. Ma scamazzava palla, due a competizione, due gli anni ottanta, volere e potere. Voleva e non poteva, ma faceva bene. Sento che non c'è tempo, che mo' sono sparito, che manca di scissa, che sono esistito. Tutto cagnato, peggio è passato, nuovo è arrivato. Tutto cagnato e tu stai ancora in da televisione. Te fa la faccia nuova, ma sei lo stesso imbruglione. Siccome mi sono rotto cazze, ma fa bene. Tempo non c'è sta che noi damma fatta sta canzone. Cerca tempo e non c'è una sta. Cerca tempo e non c'è una sta. Cerca tempo e non c'è una sta. No, no, cerca tempo e non c'è una sta. Aspetta, come qualcosa che ti sei lasciato alle spalle correndo e adesso hai fretta in vetta. Cento il mostro mostra la strada maestra. Chi mo sta girando intorno al niente come su una giostra. Resta da dire che come i punk sono di Antichrist. Sto all'impop come il demone da Poltergeist. Stai abbandonando la mia nave piano. Quel terra cento io saluto e forse torno già lontano. Esco col bagliore tra le fessure. È la luce di un altro giorno che rischiara le mie paure. Un'intuizione adombrata dalla mia eterna indecisione. Di chiudere tutta la vita dentro lo stipone. Ma non è così, non è questa me. È giù una notte di paura e non vale un giorno sul beat. I ricordi e la speranza sono troppi, io lo so. Ma pensare a passato a futuro certe volte sai fa male dentro. Nella mia testa si rincorrono i pensieri. Sono sempre più seri, sempre più neri. Ma è un cane che si morde la coda girando. E mi accorgo che pian piano i conti stanno tornando. Nessuno ha calpestato i tuoi castelli di sabbia. Nessuno potrà chiudere le tue favole in una gabbia. Non so se sono sveglia, dormo pure fantasia, ma l'unica cosa che so è che questa notte è la mia. Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Bloccarsi non si può. Cerco un nuovo contatto, un po' più di controllo su quel che sto vivendo. È il presente che mi sfugge dalle mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando. Tempo cerca tempo e tempo sta. Tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta. Tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta. Tempo cerca tempo e tempo non ce ne sta. Sento che non c'è tempo e allora un po' più fretta farò, cercando di non lasciarmi prendere dalla solita ansia. Bloccarsi non si può. Cerco un nuovo tempo e non ce ne sta, cerca tempo e non ce ne sta, cerca tempo e non ce ne sta, no no, cerca tempo e non ce ne sta.